Parlando risponde almeno. Parlo tedesco io, glielo sai, io parlo africano. Anche tu negro, ho capito. Io sono un povero negro. Ha detto che non parla tedesco, parla solo italiano. E lui è ancora. Allora, stavo sistemandomi un po' di cose qua. Gli alimentatori, delle cose che hanno trovato nella mondezza, e così sono a posto. Se mancano due P, ragazzi, che sono esplose, cioè era già esplosa la prima, la verità scritta, era un cargo di bruciato dentro, tutto lo stampato con la 220 e si è crepato per la ricarica delle batterie, poi le batterie non te le dico nulla in che condizioni sono esplose. Non ho capito, un amico ha trovato una mondezza, un laser per casa, per mettere la musica, cioè in pratica fa la luce rossa, la luce verde, poi lampeggia e poi gira, eccetera eccetera, e poi una pila di quella che si mette lì in fronte, era senza alimentatore, senza nulla, l'ho preso e ho trovato due alimentatori che c'avevo in quegli scatoloni. La sottoposta a metodo e gliela giù piazzata, ho visto che funzionano. Adesso domani se c'è viene se deve tira. Poi vabbè, c'è le tire, quelle con le dette bianche, con i cinesi, quelle che hanno con le batterie grandi, gliele hai viste. Tutte crebate, non ce n'è una sana. E cosa vuoi pretendere di trovare? Roba buona? Infatti le due pile Marco Fusaro del vento, sono i cinesi italiani, sono quelle pile rettangolari, grandi, da 1,2, e sono piene di liquido dentro, capito? Non fa manco a toccarle, sembra che stai toccando cosa? Acido moriatico. Ebbene, sono la sei combinata. Pensalo quello, poi siamo guardati l'accendo, altro che c'ero. Stavo facendo scaldare un po', che era parecchio tempo che non usavo, e almeno sta funzionando anche di getto. Eia, sto usando l'ordinale, lo Spirit CTE. Me ne sono accorto perché sei leggermente fatto. Non ci posso fare nulla. Perché il mattino, non so ma con quante batterie la prendiamo questa qua. Una volta usciva a 15, poi mi era regolato Fabio e me l'ha fatto calare di watt e anche l'LC li ha abbassato un po', perché l'altra volta avevo preparato, veramente pompava e avevo preparato un corso, un modulatore. Ma dimmi una cosa, ma è 14 là, non ci stai entrando più? È 14 là, su 7 là, non su 14. Ma che è su 7? Di solito non mi durate nel 14 tu, nel... come si chiama? Nel Cibizzato. Ah, nel Cibizzato. Penso ma un bel po' che non entro, non ce ne sono soltanto il 27, ma il 27 in quei 40 canali. A volte lo accendo e non c'è manco uno, da qui a fino ad arrivare a Chiesi, manco un cane. Ieri ho fatto un paio di chiamate, anche oggi, ma sto morto. Che cavolo è successo qua? Ah boh, non lo so, magari qua si sono stufati. Avanti Black, chi è? Ciao, un po' grigio ai punti, ben sentito Nicola. Ma dove sei in camper, no? Ah, ecco, perché di solito tu modulavi da Provizzetta a Sassari. Ecco perché te l'ho chiesto, pensavo che eri in camper. Quindi invece sei a casa di tuo figlio. Ho capito, quindi Franco di Sosa non lo senti, senz'altro. Franco lo senti a lupo grigio? No, negativo, ma so se riesco a me, Niente, no, non riesco a tirarlo fuori per niente, comunque salutamelo, però io non riesco a tirarlo fuori. Lui è di senza spesso. Il capo, ma io lo negativo. Non so, quel palatino sta usando, sta usando un portatile oppure palatino della macchina. No, sta usando il portatile, sta usando. Ah, e allora per quello, vai. Per quello che non riesco a tirarlo fuori. Allora lui me lo potrebbe ascoltare. Beh, ti ascolta sì, no. Capo, dai, se mi ascolta allora, salutone Lupo Grigio. Mi hanno ascoltato, non te lo posso dire perché non ti sento niente. Sentite Lupo Grigio, adesso sei sceso Santiago 2. Sì, Santiago 2, a volte sali a 3, oscillante sì. Poco fa ho sentito Eugenio chiamare su questo canale e poi è parito. E gli ho detto avanti chi c'è? E è sparito ragazzi Eugenio. Tanto entra, poi sparisce, poi rientra. Eugenio o stava lavorando o stava andando o stava tornando a casa. Ah, è quello capace di andare a lavorare col camper. Poi facendo un si mette lì vicino alla spiaggia, se rimane lì fino alle 8 e mezzo di sera, poi alle sera poi se torna a casa, se ne torna. Capo, magari era quella macchina, non per andare a lavorare. C'è uno qua che, cioè quando stavano costruendo quelle palazzine qui vicino a casa, dove lavoravi tu, mi... veniva in camper a lavoro, ma allora il pranzo prendeva e mangiava all'interno, poi chiudeva il camper, andava a lavorare, poi alle 6 prendeva e se ne ritornava a casa, evidentemente magari abitava lì ai punti per non stare avanti e indietro, senza portare un camperocchi. A me lo andava all'ospizio, faceva la spesa e mangiava tranquillo. Capo, lo sai che non ricordo che c'era un periodo che c'era un camper sempre parcheggiato lì, ai parcheggi, in fondo, però non so, se non ho mai saputo di chi era. Era per Policeno, lì uno faceva il muratore qua, capito? Quando hanno costruito queste tre palazzine, è sempre lì che parcheggiato. Ah, io ho detto, sarebbe di cosa, ho detto, a venire col camper a lavorare. Mi vedeva la vita e mi veniva. Poi ho capito il motivo, in pratica, parcheggiava in camper, allora di pranzo, per non starsene con i colleghi suoi, prendeva prima il camper, entrava dentro, mangiava e poi rientrava al lavoro. Non era male. Questo qua aveva la casa lì anche al lavoro. Di rimasto due a rischio, perché magari potevano andare in mensa, cosa così, mangiava nel suo campo, c'aveva la roba già da mangiare, ma pronto, magari c'aveva la cucina, se la scaldava, lo fa e mangiava, era meglio. Era meglio sì, l'hai escogitato bene, l'hai escogitato me. Ho avuto un bel idea lì, ce la faccio a rientrare dopo a casa. Mi metto il camper lì, altro la bombola accendo, faccio altro che accendere la pentola e mangio la roba calda tranquillo, poi prendo e rientro al lavoro. E alle 5 e mezzo, sì, poi andavano al mare, bevevano. Poi pigliava lui e partiva direttamente a casa sua. Ma ogni mattina preciso lì, alle 6:30 si rientrava a casa sua. Dopo si faceva il cerchetto con i colleghi. Già mi ricordo. Pensare che nei parcheggi possono entrare chi vuole, poteva entrare, parcheggiare lì, cioè non chi vuole. Entrava. Tutti i lavoratori potevano entrare, parcheggiare con qualsiasi tipo di mezzo, parcheggiavano lì e lo lasciavano lì fermo. Esatto, sì, facevano così. Poi magari era il capocantiere, niente di strano, perché di solito i il capocantiere quando vai a trovare dove ti trovi mai, se sei poi in giro sono da una parte all'altra. Ma che società lavorava? Non lo so che società lavorava. Sono le ultime due palazzine che hanno fatto proprio di fronte a casa, quelle. Non quelle gialle, le altre. Vabbè, poi non c'entra niente, io pensavo, mi stavo chiedendo di quale società lavorava, ma non so se era lì vicino a te o più o meno. Però, diciamo che magari se ha le limiche è diverso, magari è la vita esterna, perché c'erano tante ditte lì dentro. Non lo so se è la vita esterna, vabbè. Più che altro mi ricordo che gli elettricisti erano per i fatti loro, i caffettieri altrettanto, i muratori altrettanto, cioè in pratica ognuno aveva i fatti suoi. Quando costruivano, ecco, dopodiché arrivavano gli elettricisti, poi arrivavano gli idraulici, poi arrivavano quelli e finivano il lavoro. Cioè praticamente li muovevano, capito, da un sito all'altro. Magari stavano costruendo più di una palazzina, capitano, la facevano da una parte all'altra. Perché all'inizio ho visto che lavoravano solo muratori e carpentieri, gli elettricisti non ho visto mancuno. Dopodiché che hanno fatto tutto l'interno, eccetera, eccetera, allora sono intervenuti gli elettricisti, ho visto che c'erano, e poi gli idraulici, eccetera, eccetera. Va bene, sono le 5, adesso vado in Milano e me ne esco un po', Ci sentiamo a te, alla prossima. Ehi, ciao, ci sentiamo alla prossima. Buona passeggiata, buon tutto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Silvio Nicola, ciao Nicola. Ben ascoltato, mi ascolto bene. Ok, non capisco, sento più vicino vicino, comunque, sei qua più giù. Sento vicino, così, chiaro che ti sento bene, non c'è problema. Sento tutti i vicini, perché no? Sì. Ah, sì, sta tenendo qua tuo figlio, con questa zona. Ok, molto bene, molto bene. Quindi va bene, e quindi avremo un modo di servizio. Magari più spesso avevo dei miei qua, perché quando si attacca faccio molta difficoltà a ascoltarti. Sono i due dipendenti che si riporto di una macchina, non sempre, la maggior parte delle volte non è così. Sì, diciamo che sono in una traversa corrispondente alla mia parentela. Sento parlando io da lontano, sto parlando, ma è abbastanza, se mi avvicino vedi così va bene, poi se aumento un pochino il tono di voce, perché stavo parlando adesso con voi. Sì, beh certo che qualcun altro si sente, magari non da fuori stanza, però da quella posizione se lo potrebbero sentire parecchie persone in stanza. Non so nel paese non credo, però per casa sicuramente. No, non ha più trasmesso. Non ha più trasmesso, non so il motivo per cui qualcuno dice perché stava spiando e qualcun altro dice perché l'hanno fatto stappare, perché l'andavano accusato, che si trovava e perché non era lui. Sì, no, non intendevo così, intendevo verso di lui, tutto verso di lui. No, Natalino ogni tanto si fa sentire, anche ieri sera, entra, saluta e basta, però non più di tanto. Ma se non parlano, o non c'è nessuno, o lo meno non hanno voglia, non so. E so quella lì, non sento nessun altro. Sì, anche quella potrebbe essere una soluzione, certo. E se mette la tenda nella macchina sicuramente uscirà il video di come esce la casa, perché la casa si è così occhiuso, soprattutto mettendo la tenda calamitata così alla permettere prima di mettere questo isolamento, e dunque poi rimane coperto, non si vede niente, però hai la possibilità almeno di avere la linea di discesa, per cui vabbè, cioè, non è che quei tubi, non mettere solo il tubo, se fai mettere il tubo, non filarsi il tubo dentro, sì, beh, dopo la posizione, per certi punti vai bene, certo, ma per altri no, ma la maggior parte delle zone trasferite non è che andrebbe molto bene, potete sentire che frio quelli della pelosa magari, potete sentire il gallo, ma non più di tanto, qui da me non arrivavi, è scelto qualche volta, non so per qual motivo. Beh certo, lì è un tiro di schioppo da te, per cui è chiaro che lui sente il senso che è finito, però lui fa sentire dappertutto, tu è che non arrivavi per il tempo che passa che non avrebbe l'antenna performante, il discorso è sempre quello, tu vuole sempre l'antenna, come dicono gli americani e anche gli italiani, 10 lire per il barattino e 100 lire per l'antenna, e questo è importantissimo, l'antenna è il 50% della qualità della stazione, ma dipende, ad esempio stasera ho acceso verso le 5, l'ho preso per un ascolto, stavo guardando la televisione perché era la seconda tappa del Giro d'Italia e stavo seguendo quello, ancora in questo momento c'è questa una tappa e appunto la stavo seguendo, ho sentito che chiamavi e ho risposto. Ok, d'accordo. Se ti sento mi fa piacere chiacchierare con te, non c'è problema, ci mancherebbe altro. Certo, io ho proprio oggi ho ritirato la radio perché ce l'avevo su in continente in quanto si era rotto e sono andata a riparare e è venuto un mese di tempo più o meno tra il trasporto eccetera, però adesso l'ho ricevuta proprio stamattina e va benissimo, è molto bene, me l'hanno riparata a meraviglia. Ok, se capita non c'è problema, va bene. Bene, Nicola, una cosa. Sai, quanto prima, per il fatto dell'antenna, anche quando sei a casa, così, quando ci siamo tutti, anche ieri c'eravamo, abbiamo fatto queste ieri, mattina, insomma, un po' tutti i giorni, la sera un po' tardi, ma ci siamo sempre, ci siamo tutte le sere, un po' tardino, però, perché si sa, c'è gente che lavora, per cui entra un po' tardi dopo il lavoro, allora si fanno sentire e facciamo comunella. QRZ vuol dire il nome nativo, devi dare il nome nativo, QRT vuol dire che stai chiudendo. Ok, ciao Nicola, grazie per essere entrato e per avermi chiamato, così abbiamo cambiato due chiacchiere, ciao. Buonasera Giulio. Ciao Fra, tutto bene? Tutto bene, niente ordine come sempre. Non ti stai parlando con Nicola, quello che è un po' grigio, dai. Sto parlando con la radio grande, dai. No, dicevo Giulio, con chi stavi parlando? Con Lupo Grigio, confermi? Ah sì, con Lupo Grigio, lui ti sente sicuramente. Come qua, lui è in zona qua, dove abito io, perché stanno allestendo un appartamento che ha preso il figlio, che deve venire ad abitare, e stanno sistemando, per cui lui si trova qua e col portatile mi ha chiamato e ho risposto. Ah, ecco, perché proprio non lo sento col gommino, poi sarà col gommino, penso, quindi da lì è quasi impossibile. Appunto, stavamo parlando proprio di quello, di attrezzarsi come antenna, in modo che lo possano sentire tutti, ma lui adesso qua, in zona a me, mi ha trovato dove più 15, col portatilino, sarebbe dovuto arrivare ancora più forte, ma essendo un portatilino non è che ha questa grande potenza, e poi sempre il discorso dell'antenna, l'antenna quella è fondamentale, da lottare, non c'è bisogno che te lo spieghi. E allora Gianfra, cosa ti dice? Stavo guardando il ciclismo, non so niente, momento che non so come si chiama, ma adesso è iniziato ieri in Italia. Sì, oggi se non ricordo male erano a Novara, troppo lontano per ascoltarli purtroppo, anche se c'è l'aereo in giro, però è molto difficile ascoltarli. A meno che non mettono la direttiva, perché loro hanno il ponte radio su un aereo, no? Che gira sempre in fondo per mandare immagini, audio e così via. Quando erano in Sardegna li sentivo 9.40 e loro erano a Cagliari, figurati. Ok, ma cosa hanno fatto in Sardegna? La settimana santa? Io non ho seguito niente. Guarda giù, onestamente non lo so, non ti so dire. La settimana santa non è a Pasqua, poi io sono un po' ignorante in quelle cose. No, la settimana santa, avevo sentito che avrebbero fatto quest'anno. Praticamente la settimana santa è finita il giro della Sardegna, grosso modo, con alcune tappe, 3, 4, 5 tappe in Sardegna. E invece non ho sentito niente, non ho saputo niente. Però avrei seguito, perché a me il ciclismo piace. Guarda, non lo so onestamente. Non ti so rispondere perché non lo stavo seguendo. Ok, è una bella festa. Adesso mi sta in Italia per 20 giorni, 21 giorni, tutte le sere a 22 100, e si muovono a ora delle 5, perché di solito verso le 5 finiscono di percorrere la tappa. Va bene così. Io ho sempre seguito il ciclismo, e non solo il ciclismo, anche altri sport. Da poco, l'ultima volta che ho guardato la televisione, Sky Sports era una ventina di giorni fa, più o meno, c'era come nome su Fisi, che tra l'altro c'è un gruppo che ha fatto il campionato europeo, e lui ha fatto un certo medaglia di bronzo. Quello era in Russia, da poco, stavano 20 giorni fa. Giulio. Esagerato. Buonasera. Giulio, aumenta per operatore radio, ma il processore è inserito. Ah, il processore, aspetta, che forse non è inserito a te. Aspetta. Se tu hai detto che di non toccare niente, di usarla così, inserisci il processore. Eia, era attaccato, perché ho provato l'FM stamattina con Roberto, è per quello. Beh, vale. In FM te l'ho detto, devi staccarlo se no è troppo forte, ma non metti nell'attaccato, non ti sentivo di radio. Perché non mi sono ricordato di rimetterlo, perché era l'una che stavamo chiudendo, e dunque non mi ero accorto che c'era il processore staccato. Cosa ci vuoi fare? Cazzo, mi stai arrivando una bomba atomica, mi stai mandando come radio qua. Cazzo, è poco forte, bella, bella, bella. Hai staccato la tua parlante, credo. Sì, ancora la tua parlante, io sto andando col baracchino, è il tram più 3, non... Giulio lo sa, il mio 430 è ancora in continente, si è dimenticato di spedirmelo. Ha spedito quello di Giulio, ma ha spedito il mio. Alla storia di Cristiano, guess. Paccare dai. K. No, anche tu stai arrivando bene, Giulio, molto molto bene. Ricordati sempre di non superare almeno, 10 watt di portante bianca, daglieli. Mi sembra che ci sono 10 o 20, ne sta segnando. Quanto ne sta segnando? Ciao Gianfra, scusa. Aspetta che guardi. Sì, 11, dai, 11 watt. Siamo lì, 11 watt. Sì, no, non l'ho toccato, l'ho lasciato così, no. Anche da Roberto stamattina, 10, proprio 10 centrati, guardate apposta, adesso sono 11 magari, forse perché ha scaldato un po', 9.20 e più modulati 9.25 da Roberto stamattina, con una radio perfetta. No, sei perfetta, io ho dato un po' più di gas, così mi ci se i segnali sono giusti, perché qua i segnali erano diversi, giustamente da te cambiano, capito? Comunque già va bene, molto bella la modulazione. Sì, sì, sì. Il stato è visto 10 watt, ma c'ha dei picchi di 30, di 40, quindi lasciala così, perché così mi ha detto. E così continuava a dirmi sempre quando ci sentivamo al telefono: ricorda ai tuoi amici di non andare molto più di 10-20 watt con quelle radio, se no bruciano tutto. E vabbè, a pigliare il nome devo chiamare. Ok, dai, io sto guardando la TV e sono entrato per salutarvi. Come ti arrivo, Giulio? Quasi 9:10, quasi 9:10, 9:09, una cosa del genere, dai, siamo lì. La radio è a bomba, la tua radio, insomma, ecco, perfetta, veramente bella. Ok, no, anche io stavo seguendo il ciclismo e poi avevo il volume abbassato e mi ha chiamato Nicola, Lupo Grigio, che sta allestendo l'appartamento qua dove sono io per il figlio, e dunque strano molto, dice magari ci sentiamo più spesso perché vengo qui da mio figlio, e allora essendo lui un pochino scarso come stazione, e allora riuscirò ad ascoltarlo senza tromita. Sì, ascolta, allora stavo guardando anche l'oscillazione del watt. 10 watt, e qui sono picchi anche da 60-70 watt, o Claudio, non solamente di 40 come stai dicendo, e la radio è a 10 e i picchi salgono anche a 60-70. Sì, sì, così è così, chiedila così che è una bella bestiolina con la radio. Se poi capita che c'hai qualche problema, portala di portante, anziché a 10 watt portala a 20, a 30, ma non andare oltre, non andare oltre. Ok Gianfranco, a te il cambio, rimango in quelli, ci sentiamo dopo, ok? Ok, il segnale è tuo, Claudio, sempre 9:19, 9:20. La radio invece ha cambiato, ovviamente adesso la parola è la tua, però è anche esagerata, avevo l'orecchio attaccato perché poco fa Giulio lo sentivo stranamente basso, pensavo che fosse ancora con l'altro, cioè basso di radio. Poi sentato due, anche quattro me l'hai fatto scendere, l'orologio, tutto quanto mi è sceso. No, perché tu sicuramente non gli dici niente, a te più la radio è bassa più va bene, quindi a Giulio non gli hai detto niente, ma io sono molto attento. Guarda, io ho il Time più 3 col Galaxy, lo sto usando esattamente a 1. Se lo abbasso non mi senti più, quindi purtroppo questi microfoni sono così. Va bene, dai, un abbraccio Giulio, a te il cambio, e goditi quella bella radio, adesso è tutto a posto, quindi ci sentiamo dopo, che mi guardo un po' di TV, ok? Ok Claudio, ok, grazie ancora per tutto l'impegno che hai messo, che veramente contento sono veramente contento, è venuta splendidamente bene la riparazione, sono contentissimo, mi hanno dato dei controlli stamattina eccezionali, anche Franco di Sorso, senza nessun problema, radio perfetta, segnale il mio, quello solito, per cui va benissimo. Sempre parlando di 10 watt, se stavai a aumentare ce l'hai il collo al carrier, no, assolutamente, sempre a 10 watt. Va bene, ci sentiamo, ciao qua, a dopo. Avanti Giafra. Ciao, ok, ciao Claudio. E vai a lavorare, che non devo essere solo io a tagliare erba qua. Se c'ero tutta la mattina ho preso quasi un'infolazione. Accidenti. Adesso mi è l'ora ideale per questi lavori, esci fuori, col faccetto però, niente di elettrico, ma che col faccetto mi pitti, che ti fa bene. Ma Fernando, ho già deciso domani mi metto a tagliare erba, poi devo scendere a prendere la tinta per verniciare il cancello. Oggi è domenica, non forse nuda. Nuda. Ci mangia e ci beve, Ok, dai, ci sentiamo più tardi, vai Giulio. Ok Claudio, prendi Sinuil, la tinta prendi Sinuil, non prendere altre marche, prendi Sinuil, che è quella la tinta, costa un tantino di più, a livello di qualche euro in più, però è buona. Sì, vado, mi pare che avevo già preso quella anche per il cancello dei carbonazzi di nell'altra casa, mi pareva proprio quella. Sì, sì, riprendo quella lì, però anziché grigia la prendo nera. Vabbè, comunque non è importante, è interessante che sia quella marca. Quella marca dura di più delle altre, ma di gran lunga di più, non poco, di gran lunga di più, è chiaro. Poi se sta strada sempre ferro, magari da un lato puoi notare qualche segno di però se metti l'altro dopo 3 mesi di nuovo vedi dopo la ruggine. No, abbiamo messo quella, sì, infatti quella c'è un sistema anti-ruggine anche insieme alla tinta. Va bene, dai Gianfra, riprendi che mi allontano, già torno dopo. Ok, va bene, grazie. Vuoi fare qualcosa, dai, almeno con la carta per tratta, dalle non ci dato il cancello. E stamane alle 6 io ero già operativo, e sto combattendo con delle macchie di muffa, dovuto usare la calce per coprire, maledizione. Che stagione, forse un anno veramente terribili, terribili. Vai comunque, vai, riposati, e poi domani fatichi un bel po'. Riprendi Giulio. Guarda che io ero operativo alle 6 lo stesso, alle 9 ero già a casa di Giulio, ero già stanco di stare in piedi. Ciao, a dopo. Cosa operativo, cosa a tagliare erbastia, su. Adesso ci vuole qualcuno, dico, la frusta che ti fa fare le cose anche a te. Vai, vai, lasciami fare, già sto facendo, vai giù. Ok, quanto mi hai detto di segnare qua? Non mi ricordo, quanto mi hai detto di segnare poco fa? Guarda, io sto andando col Galaxy, ma non è preciso, e sei sopra il 9.15, quindi tieni conto che al carburante arrivavi 9.20, penso che il segnale sia uguale anche qua al tuo, eh. Poi quando arriva il mio vi darò i controlli più precisi. Certo che sì, è perché tu pensi che stai andando male. Oh yeah, sempre il numero uno qua, non è problema. Era grande, è una radio che sfonda le pareti qua. Devo tenere la porta aperta in modo che la modulazione vada fuori e si disperda per il resto della casa, se no qui sfondi le pareti. Vai, vai, che stai andando benissimo. Sempre con zona di controllo, sempre. Anche perché adesso avrei guadagnato sicuramente verso l'altra parte, un po' meno questa, però verso quell'altra parte, verso la 131 in entrata, verso Cagliari, avrei sicuramente guadagnato qualcosa. Mi darai conferma quando sentirai di nuovo quelle persone di Oristano, eccetera, eccetera. Sicuramente qualche, vabbè, forse qualche segnale l'ho perso, ma comunque va bene, come zona non mi posso lamentare, devo tirare su l'antenna, è troppo bassa e l'ho appoggiata così giusto per fare due chiacchiere, ma poi già la mettiamo bene. Vai Gianfra, riprendi, K. Ok, Giulio 9.15 qua, la radio ottima. Ok Gianfra, sicché va sempre anche da te va bene. Io sono ai piedi di Monte Oro, che la devo scavalcare, perché se fosse stato un pochino più lontano da Monte Oro probabilmente sarebbe andata con la media, ma con 10 watt ragazzi sta proprio giusti, 10-11, dai, aspetta che controllo di nuovo. Sì, 11 watt, 9 più 15 da te, è una grandissima cosa, veramente, molto molto bene. Riprendi Gianfra. Sì, c'è qualcuno che vuole entrare? Io non sento nessuno. No, c'era qualcuno che commentava, però in sovramodulazione, cioè in sottomodulazione, non in sovra. Accidenti. Stamattina ho preso caldo, poi così presto, anche verniciando. Adesso mi è venuto questo mal di gola, mannaggia la miseria. Oggi la giornata era troppo calda, eh. Oggi c'era da raffreddarsi entrando dentro casa, perché fuori c'era un caldo anche quasi soffocante, poi entravi dentro magari c'era più fresco. Purtroppo è così, adesso fin quando non si stabilizza bene il tempo, così succede questo. L'ho notato anch'io qua a casa. Va bene che ormai il riscaldamento è spento già da una decina di giorni e dunque la casa quel caldo che aveva accumulato in quei giorni che il riscaldamento era acceso non c'è più, per cui esci fuori e senti quasi un senso di soffocamento al caldo, poi vai dentro e sei quasi quasi in frigorifero, quasi, però si sta molto bene anche qua. Io ho 3 temperature, 4 temperature qua, a seconda della posizione dove mi trovo. La posizione più fresca è giù nella tavernetta. Sì, io ho 22.4 qua dentro, fuori ovviamente più, molto più alta, perché qua è aperto, quindi la becca tutta. Qua ti volevo dire una cosa, Giulio, me ne sono dimenticato, mannaggia la vecchiaia carogna. La vecchiaia carogna. È vero Nathalie, è così, c'ha ragione. Sì, vabbè, ciao Nathalie, ho messo la ventolina così. Una ventolina ho messo adesso, non so, forse la sentite, non so se è fastidiosa, la tengo, l'ho messa così tanto per il gusto di toccare un interruttore. Tu la senti troppo forte o devo fare la ventolina? Sì, si sente, ma a me almeno non mi dà fastidio. Ciao Natalina, buonasera. Ma entrate, allora, come tu eri al mare, no? Ho fatto il bagno. Sì, allora, non so, sono uscito 5 minuti stamattina a farmi un giretto, a piedi però. Comunque, buonasera a tutti. Ciao Natalina, e beh, allora, io, guarda che stasera ho sentito l'ufficio, e appunto mi ha parlato di te, che sentiva eccetera eccetera, chiaramente se tu li vicinati mentre ti urla vicino a me. Sì, Giulio, mi sono ricordato, dovevamo fare quella prova noi che ti avevo detto, lo ricordi? Sì, se vuoi anche adesso non c'è problema, guarda, io sto già accendendo. Ok, perfetto allora. Io quando sto accendendo, quando sono pronto ti aperto e riprendi un attimino Natalì. Aspetta, sul numero 3. Sul numero 3, va bene. Franco, ci sei? Sì, mi si è bloccato il coso, te lo immagini. Giulio, mi ha ricevuto? Prova Gianfranco, se ti sento. No, ho detto che mi si è bloccato. Sì, quello l'ho capito. Ebbene, non puoi bloccare adesso. Sì, ma aspetta, devo spegnere e riaccendere. Ero da tanto che lo volevo provare, ma saltato, bucata. Vabbè, dai, appena ci sei, già ti vedo. Boh, che strano. Non ti vedo qua. Non sta andando. Forse ho sbagliato qualche cosa io. Accidenti, vabbè. Dai, poi lo riparo e lo riproviamo. Perché ho fatto un aggiornamento ed evidentemente mi è andata male. Ok, d'accordo, dai, quando si prova, lo riproviamo. Anche fuori dalla frequenza, al limite, quando riesci, mi fa lo squillo e io mi sintonizzo, ok? Sì, aspetta che però sto approfittando per provare una cosa, dato che ci sei, se ci riesco. Oggi non sto molto in forma, Giulio. Sono un po', come si dice, un po' così. Prova, non c'è problema, non abbiamo fretta, prova. Prova, uno. Fammi una chiamata anche sul 14, la puoi fare? Sulla 125, 27-125. Su 14 sempre di quello tipo lì? No, qua. Voglio vedere una cosa. Va bene, faccio su 14. Com'è la 27? Perché sono la sistemia continua. Quant'è? 27? Sì, insomma anche qua. Sono nell'aria qua. Da Franco, io ci sono su 14, passa anche tu. Sì Giulio, stavo cercando di accordare l'antenna, tutto lì. Ah ok, 27, 125. Confermo. Giulio, puoi chiamare su tutte e due le frequenze, sono operativo qua e là. Giulio, prova a parlare. Giulio, sono su due frequenze, prova un po' una delle due, quale ti piace di più. Ciao Giulio. Che succede? Andate su canali che lui non ha. Sì, ti sento. Sì, basta andare su canali che lui non ha. Sì, mi dicevi Marco che ho dovuto un po' abbassare. Sì, se scendete alle soglie di 25, anche qualcosa di meno non ci arriva. Lo so, ma ci serve qua perché sto rilevando la zona, capito? Già l'avevo rilevata, deve sempre da lì. E un'altra antenna sta usando, molto ci vuole a capirlo. Sì, guarda, ma c'è la tenda che gioco con la potenza, quindi già lo finiamo. Anch'io sono tutto scombussolato oggi a Gianfra. Speravo di documentare il passaggio di quel razzo in caduta. Mi ero attrezzato, ma stavo seguendo anche l'orbita col sito, i siti soliti, ma niente da fare. Poi c'è caduto stanotte. Sì, io volevo beccarlo alle 4 e qualcosa quando passava sulla verticale di Sassari, però è troppo repentino il passaggio, io non sarei dovuto essere in terrazzo, sul tetto del palazzo non faceva, dai. Non... Marco, sapete dove può andare, che è? Sì, anche a te Marco, aspetta, ma non ce la fa. E sono contento, almeno passiamo la serata, porca miseria. Eccoci qua. Giulio, adesso va meglio? Sì, sì, dicevo, se mi dai un attimo, io stavo riavviandomi l'attrezzo, perché ho fatto l'aggiornamento e mo sta cosa mi sta creando problemi. Cos'è un aggiornamento firmware che non è andato a buon fine? Così sembra, ma cosa strana, però già dai, non è un problema, non è un problema, piano piano si fa tutto. Allora roba recente, cioè un apparecchio comunque non troppo obsoleto, dai. No, io roba obsoleta non ne ho, Marco. È tutta targata 2020-2021, quindi è modernissima. È per quello che ti sto dicendo che mi occorre un pochettino di tempo per localizzare in termini di gradi questo signore, poi non c'è scampo. No, non credevo avessi ancora roba ANPRC, roba più retro, dai, ok. No, cioè, sono quelli che intercettano, capito? Sono apparati proprio per vedere da dove trasmette il nemico, diciamola così, capito? Serve a poco, perché poi io l'ho sempre detto, anche se scopre il palazzo, l'abitazione, la campagna da cui sta trasmettendo, non si può dire perché c'è troppa gente che lo vuole far dal male a questo poveraccio, capito? Poi dal coso si passa, dalla ragione si passa al torto, quindi è solo una mia curiosità tecnica, capito? Tutto lì. Riprendi Giulio. Ok, Giulio. Sono forse tra un momento. Sì, anche tu non ti fa niente, Giulio, ma se no mica. Tutto lì. Sì, mi è proprio imballato questo. Capito Marco, tutto lì a te sicuramente, non so, forse arriva anche più forte, no? A me arriva a 9, quindi no, più di tanto non mi disturba. Ok, sì. Adesso io sto usando il lineare anche, capito? Adesso quello che adesso non ce la può passare, ma nemmeno per sogno. No, qua passa Giulio, qua non passi, qua ti copre. Gianfranco non ha problemi invece, perché ce l'ho davanti. Vabbè, io non ti posso fare niente. Se faccio così, mi copre. No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno, guarda. Lasciamo che... Ma anche a me la sta mettendo? Allora, sì, ma il tuo pezzo ne sta approfittando, perché si mette quella puttante a te, allora. Ok, anche a me. vabbè, vuole vedere quanto è bravo. Lasciamolo fare, poverino, mamma mia. Un po' mi fa pena, perché è così. Cosa può essere? Un avvenimento del genere, cosa può essere? Oh, i poveri noi, che elementi ragazzi, ma cosa ci vuoi fare? Allora Marco, io pensavo che fosse al mare, invece... No, l'ho voluto evitare perché tra ieri e oggi c'era stato un casino di gente, ieri sono andato a Luna, ho fatto un giretto, solo che a me... Già a me non me ne frega di trovare un bar da sport, a me piace sedermi e passare mezz'oretta così a guardare l'orizzonte, la gente che passa, capito? Quando si risolverà del tutto sta storia Covid, se ne parlerà. Sicuramente c'era un bel di gente, sto aspettando conferme da alcuni contatti, sapere com'è la situazione, che ne so, filmati, foto. E poi ti dirò che non me la sento tanto. È un periodo che non sono tanto per la quale. Sì. Sì, ma anch'io io vado sempre in un posto, ma non. Ma attualmente preferisco stare tranquillo, non si sa mai, troppi incoscienti ci sono. Per Giulio dovrei essere online finalmente, proviamo il 14, che ne dici? Il 14 Giulio, di quello ho riservato, quindi dell'UHF. Anzi, del giga, della paletta in giga. D'accordo, ci sono, pronto. Guardati, sto chiamando. 1, 2, 3, test, prova, Giulio, mi ricevi? Aspetta un attimo. Giafra, ci sei? Sì, io ci sono, guarda. 1, 2, 3, prova, mi ricevi? Giulio, ma mi ricevi lì? Sì, aspetta un attimo. Abbiamo tanti modi di fregarlo, mio Marco. Sì, chiaro e forte, chiarissimo. Ti posso mandare anche con Marco. Se lo vuoi salutare, sei online, vai. Parla pure Giulio. Ok, ciao Marco. Sì, ricevuto. Contraccambia, dai. Sì, ha detto di contraccambiare, comunque l'avrei sentito in diretta. Sì, ti sente, parla pure. Marco, l'hai sentito? Sì, nessun problema, dai. È solo che viene male così fare da ponte. Sì, vabbè, perché ora c'ho da fare un po' staccato, ma volendo posso farlo in diretta, come se fosse un apparato full duplex, praticamente. Aspetta che abbasso gli altri apparati perché c'è tanta roba accesa. Per tutti i ragazzoli. Quando vuoi. Io alle 10. Giulio, sì, passa 27800, Giulio, dai, che tanto questo non ci arriva. Va bene, 27800. Ho la 10, chi c'è l'ascolto sul 10? Cambio? C'è rimasto qualche cuoco, ma adesso sul 10? Cambio? Marco? La piccetta e basta. Chi c'è qua? Non ci trovo adesso. Giulio? Sì, Gianfra. Beh, visto che con i potenti mezzi non ce li ha quei canali lì, non ce li ha, quindi si attacca al tram, è una guerra aperta. Tanti saluti a Natalino comunque, che era lassù, e ti manda saluti a te, a Marco. Eia. Comunque c'è anche meno QRM, quello perché l'antenna non è fatta per quella frequenza e per delle specifiche, capito? È abbastanza silenzioso lì. Sì, ma poi non capito. Ci perde, impazzisce lui a cercare, ne ha da girare. Certo, se avessi avuto l'accordatore, aspetta che spengo il monitor, se avessi avuto, avuto l'accordatore sarebbe stato meglio per le stazionarie. Perché lì un po' ce n'è, diciamo che sono a filo di due, dai, quasi sotto il due di stazionarie, ma tollerabile, dai. Giulio, di lì molte stazionarie avevi tu? Io? No, assolutamente niente, nulla di nulla. Io ho l'accordatore antenna e posso andare su qualsiasi frequenza accordando, non c'è problema. Sì, perché poi la Game Master è bella piatta di rosse, c'è una banda molto larga, K. Infatti è come la mia e quindi stessa cosa anche da me, rimane intorno all'1,2, 1,5 dai, ma è proprio super gestibile da qualunque apparato. Poi hai visto anche con potenze bassissime ci sentiamo tranquillamente, perché sono molto più puliti. Certo, sì, ma è così, in effetti è così. Infatti la nostra chiacchierata ce la siamo fatta comunque, dai. Ah certo, e quello che pensavi tu, che lui ci poteva impedire di chiacchierare, ma non me lo direi, non è capace, non è abbastanza intelligente. No, intelligente non lo è, su questo non c'è ombra di dubbio, tutto si può dire, anche parlare.